Come sapete, specie per la maggior parte di chi ci ascolta, che vive e lavora in questa città, è stato indetto un giubileo straordinario che comincerà fra 6 mesi, perché è novembre, siamo a marzo. L'ultimo era il grande giubileo del 2000, il prossimo sarebbe dovuto essere nel 2025, perché una volta ogni quarto di secolo, e invece è stata questa notizia, forse anche un po' inaspettata, e chiaramente fiocca anche tutta Sì. Senza forse. Fiocca la dietrologia, perfetto. Io volevo mettere un tocco di suspense. E il dato dietrologico più importante è, ecco, c'è il giubileo, perché fa il giubileo e poi si dimette, cosa che peraltro lui anche sapientemente fatto circolare, ora ne parliamo, non in maniera, cosa significa, non in maniera esplicita, però ha detto: beh, mi potrei anche dimettere prima o poi arriva il giubileo. Ha detto proprio: il mio sarà un pontificato breve, ma non è che ha detto una cosa tanto, diciamo, è un dato fisiologico che, 26 anni. Che sia breve, diciamo, cioè, diamogli con tutto l'amore che gli vogliamo altri 10 anni per stare in forma. Sì, ma possono essere anche di più, non è quello, però diciamo invece 5-6, per ragioni che sono, senza che lo diciamo dopo, lo diciamo subito, così poi entriamo nell'abito del giubileo. E lui, ci sono? Sì. C'è un ritorno? No, c'è perfetto, non ti preoccupare. Dicevo, torniamo nell'ambito del giubileo, però in questo caso bisogna ricordare, i nostri ascoltatori lo sapranno, ma è noto, ma non così sbandierato, è che comunque Bergoglio ha un polmone solo da una 50 d'anni, cioè gliel'hanno tolto da giovane. Non è un dato segreto, No, diciamo, non è un dato segreto, è noto, però non è che c'è scritto certo, il Papa con un polmone solo, ce l'ha scritto, no? Sì. Quando appare l'Angelus. Quindi diciamo uno magari non ci pensa, e anche quando dice appunto il mio è un pontificato breve. Però questa cosa che è legata a questo fatto, cioè a una persona che lo sa da quando gli hanno detto, qua, poi tra l'altro l'hanno operato appunto tipo 50 anni fa in una chirurgia che sono completamente diverse. Diciamo che oggi non gli avrebbero asportato il polmone per quello che aveva, perché poi non è che aveva un tumore, no, era. Però è stato fatto qualche passo avanti, esatto, nelle scienze chirurgiche. La medicina in quell'ambito sicuramente, io poi lo so anche per, diciamo, rapporti diretti da proprio familiari con la chirurgia, quindi lo so bene, benissimo. Conosco proprio le tappe proprio di quella malattia, cioè, quindi no, non voglio entrare nel. No, stavo pensando, già c'era stato Barnard 50 anni fa. Appunto, no, appunto, Barnard no, non c'è, non, diciamo, era iniziata l'epoca dei trapianti, però i trapianti polmonari vengono fatti dopo. Appunto, lo so perché faccio così, sono per motivi familiari, dicevo, e quindi Barnard diciamo erano stati fatti. Adesso apriamo un'altra. Sì, no, vabbè, comunque lasciamo comunque, stare. Il primo è il rene, che è un po' più facile, diciamo. E poi a seguire. No, il più difficile era il cuore. Gli altri organi. Nel frattempo poi c'è il cervello, ma che non è mai stato trapiantato, no. Ma la letteratura se ne occupa da tempo innumerevole. La fantascientifica. Chi è della nostra generazione, forse tu un po' meno, ma lo conosci, e che aveva appunto un'età, diciamo, scolastica, a metà anni 70, mi sembra 75 se non ricordo male, non vorrei ricordare male. C'è Gamma, che è una serie TV della Rai in cui c'è tutta una storia di trapianto del cervello, che però questo cervello si porta dietro la vita di quello che ce l'aveva prima, quindi c'è un po' di confusione, insomma, interessante. Comunque, quindi, manca quello. Sembra molto complicato. Beh sì, diciamo che è quello più complicato di tutti. Il cuore Barnard è quell'ambito, quegli anni lì sono stati anni incredibili, cioè il 68, Barnard, la Luna, cioè nel giro di 2 anni abbiamo trapiantato il cuore, il mondo è cambiato, una generazione intera si è rivoltata in tutto l'Occidente e insomma è uscito 2001 di sé nello spazio, anni interessanti, avrebbe detto qualcuno, sì, insomma, e così via. È stato un biennio e vabbè, e poi l'Italia c'ha una sua storia anche più, ancora più particolare per noi, fino al 69. Comunque, insomma, è stato un momento, è il periodo appunto di in cui il povero, quindi Bergoglio c'ha questa operazione che oggi sarebbe stata a pari condizioni a un giovane di oggi con quella malattia, non gli asportano il polmone, quindi sicuramente. Qui poi all'epoca gli hanno detto, e più volte l'hanno anche visitato, perché poi lui ha fatto carriera, quindi insomma ha goduto anche di alcune attenzioni mediche di un certo tipo. Certamente, cioè non è che era un desaparecido, insomma. E quindi, anzi, diciamo, stava dall'altra parte. livello di contatti, insomma, eravamo già sull'alta, nelle alte sfere, insomma, all'epoca, sì, non altissime magari, però era il capo dei gesuiti argentini, insomma. Comunque, insomma, si è fatto visitare, gli hanno sempre detto, dico, guardi, stia tranquillo, però, ecco, non esageri, perché lei c'ha un polmone solo e comunque c'ha una vita limitata rispetto a chi ce n'ha due, se no nasciamo tutti con polmone, certo, solo, insomma. No, no, non se ne però ce n'abbiamo anche due proprio per questo. Due cuori è un po' troppo costoso. No, è voluto, è costoso. Due reni, sì. Sì, perché si consumano, capito? Vabbè, comunque, insomma. E quindi... Quindi lui dall'inizio ha detto... Lo sapeva, ragazzi, questa cosa. Però io direi anche che questo sfoggiare, no? Perché prima... non è che il primo papa di una certa età, che sa anche intimamente di essere malato, anche se non lo sa nessuno, parlo di altri papi, no? Molti lo sapevano, che te lo senti, se c'hai 70-80 anni, 100 anni fa, ti senti, insomma, un po', cioè, non è che dici sto per finire, campi e va, non si diceva, e beh, tutti erano quelli di ormai più recenti. Però era un altro mondo, come abbiamo raccontato mondo, tante infatti, volte. Ma assolutamente, esatto. Anzi, lo è stato fino appunto a Luciani. Se non altro perché Luciani è uno dei diciamo motivi per cui vige così la leggenda. Io dico leggenda perché l'ho detto tante volte, ne abbiamo parlato tante volte, insomma, non è stato ammazzato. Non ci sono ragioni per credere. Ci sono proprio ragioni per ovvi motivi, insomma, ecco. Anche se, perché è una chiesa che pagherebbe, come dire, un po' troppo la memoria di ciò che faceva 500 anni prima, però per quanto, e ora lo diremo, la chiesa è quella, è anche un po' diversa, e questo rende, diciamo, un contesto completamente diverso la elezione di Luciani e poi la sua improvvisa morte, appunto, che ha un po' aperto... anche perché siamo a metà anni 70, insomma, c'è una cultura completamente diversa e lì c'è la fine anche del mistero del corpo del Papa, sì. No, è 78, lasciamo stare per sì. Noi che cosa significa, perché fa parte del decennio, cioè, appunto, chiude quel decennio cominciato prima. Ma a livello appunto di cattolicesimo, appunto, muore Montini, che è un papa conciliare, cioè ha fatto il concilio che aveva aperto il precettore, quindi proprio un'altra chiesa, creando una grandissima frattura di cui parliamo proprio dopo, legata al giubileo, voglio dire, non è che parliamo del concilio, e quindi e sono anche gli anni della fine dell'illusione, non della Chiesa, dico del mondo occidentale, che si scopre quello che poi è oggi. Ora, in quel momento veniva annunciato con toni anche apocalittici, infatti per tornare alla fantascienza c'è il boom della fantascienza distopica proprio, no? Qui che comincia alla fine degli anni 60 e proprio nel 68 esce il capolavoro della fantascienza distopica, che è Il pianeta delle scimmie, quindi insomma, ove, diciamo, non faccio lo spoiler, ma l'hanno visto tutti, insomma, quindi si intuisce che è successo, cioè, un po' un la famosa statua di Abramo Lincoln quello remake, nel remake, sì. Nell'originale è la Statua della Libertà del 68. E quindi vabbè, abbiamo denunciato proprio. Vabbè, le statue ci stanno, sì, sia sì, quella della Libertà sia quella di Abramo Lincoln, nessuno le ha cambiate nel remake. Quindi questo fatto è un po' anche da ricondursi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La Shoah è stata diciamo, al di là dell'evento in sé, che già è, come dire, indicibile, no? Però l'effetto sulla cultura, che è duraturo e che va al di là di chi l'ha vissuto, di quelli che l'hanno convissuto all'epoca, di qua, di là, no? Cioè i nazisti, poi la Germania che si deve liberare del suo pensiero. Tutto questo è passato, perché ormai sono passati 70 anni. Diciamo in questa forma così calda. Così immediata. Calda, proprio calda. Adesso è tiepida, ma per quanto riguarda proprio la lontananza dai fatti. Ma l'effetto culturale è stato devastante. È stato devastante proprio in una cultura come la nostra, legata a certi aspetti anche della teologia, sia e lì erano tutti in gioco, perché c'era tutta la cultura occidentale lì dentro, cattolici, protestanti, ebrei, tutto c'era finito. E questo poi Hiroshima, appunto, parlavamo prima di Fukushima, e quindi che è un incubo. E il Giappone è un paese folle, perché, come dire, gli hanno buttato in testa due atomiche e c'hanno sulla costa 50 centrali, sì, sulla costa, che è uno dei luoghi più a rischio del pianeta, insieme all'Italia, vorrei ricordare, di terremoti. le Hawaii, ma vabbè, quelli insomma, però ci sono abituati, in senso che lo sanno, e poi non ci hanno messo centrali atomiche. No, no, non ci hanno, no. Però dico, il Giappone sono 120 milioni di abitanti, insomma, 125 mi pare, insomma, adesso, no? Quindi una nazione è un posto in me, con tutta questa sparsa di sulla costa, per ragioni anche di tecniche, ma folli. E quindi cioè, fanno questo, ma c'hanno, diciamo, la reminiscenza Godzilla. Godzilla, che è un'icona del Giappone moderno, tra le tante, ma è proprio un'icona che si è imposta a livello mondiale, con mille reinterpretazioni o remake dei Godzilla che continuano a esistere. E Godzilla è proprio questo, cioè è una immagine potentissima che in quel momento il cinema giapponese esprime per tutti, perché quello è un film per tutti, è una fantascienza familiare, ma anche è proprio, è un grandissimo spettacolo, terribile. Però pensate, ecco, negli anni 50 noi non abbiamo niente di equivalente, cioè non abbiamo proprio la fantascienza, dico, il cinema italiano non ha proprio la fantascienza prodotta sua, e lì fanno Godzilla, cioè questo dà la misura. Gli americani che fanno? Gli americani fanno dei razzi che vanno verso Saturno, eppure i russi, perché stanno facendo veramente quello. Loro no, loro fanno Godzilla che gli calpesta Tokyo, e che è prodotto di che è un'iguana marina delle Galapagos, quelle di Darwin, che però che è un mutante per via delle radiazioni atomiche. Radiazioni. Cioè, questo è il plot, no? Gojiro, che poi è Godzilla, perché veramente si chiama Gojiro. Poi viene occidentalizzato. Sì, Godzilla, che è più figo per noi, perché Godzilla Godzilla, no? Però Godzilla è un'immagine potente di mezzo secolo e dice questo. E Godzilla sta lì, e quindi questo mondo in apocalisse si scopre ormai nella palude dell'apocalisse, perché non è come sarebbe bella quella raccontata, no? L'apocalisse reale è quello che stiamo vivendo da 30 anni. Cioè l'eterno presente, il liberismo che dice questo è il migliore dei mondi possibili, perché tutti i tentativi sono falliti. Questa narrazione che è stata costruita dentro il disastro della civiltà occidentale, che ha vinto, nel senso che sta vincendo, tant'è vero che in Europa questa è, beh, direi c'è uno scontro come mai proprio prima, ma è uno scontro profondissimo, profondissimo tra umanità e nuovo delirio teologico che si è sostituito a quelli precedenti, che è questo delirio della divinità economica. E questa è una teologia mascherata da tutti i calcoli matematici con cui si fanno le equazioni differenziali dell'economia matematizzata, dei derivati, tutta questa bolla incredibile, gigantesca, invisibile che c'è sul pianeta Terra, più grande dell'atmosfera, di denaro che fa col denaro, con l'idea che questo pianeta sia inesauribile, che questa è la follia alla base, no? Quando poi tutta la scienza dice da 100 anni che non è inesauribile, anzi tende all'esaurimento. Insomma, quindi siamo nel delirio totale. Questo delirio totale diciamo, la Chiesa che fa il giubileo. E straordinario. Che vuol dire? Intanto, cos'è il giubileo? Non è un giubileo, nel senso che il giubileo è una roba ebraica, come al solito, esattamente, che poi diciamo si perde nella notte dei tempi, e a un certo punto rispunta fuori in modo molto distante come anno santo, recuperando questa tradizione dentro la tradizione arcaica della teologia cattolica. Appare questo nel Medioevo, anzi proprio mille anni dopo la storia che la Chiesa inizia con Teodosio. Quindi non a caso sono mille anni giusti, no? Di celebrazione di se stessa. Quindi l'anno santo, quando nasce, che è un'altra cosa dal giubileo, ma che ne riprende le motivazioni profonde di redenzione sulla terra, di perdono, di misericordia, appunto, di ricordo che il Dio è misericordioso, non è spietato. Non è vero, ma non è vero nel senso che è anche spietato in realtà, ma si calca così. In quel momento è il Dio misericordioso. Si mette un po' il riflettore sulla misericordia. Misericordia, quindi il Giubileo nasce in questa forma di anno santo nel momento in cui la Chiesa celebra se stessa, nel momento della sua massima apoteosi. Mille anni di storia cominciata da Teodosio, che è arrivata con i papi medievali, Gregorio, Urbano, Innocenzo, Bonifacio, appunto. Questi sono i nomi di una Chiesa che si sfida l'impero, dicendo: io nomino anche imperatore, perché non c'è nessuno sulla terra più del Papa. Questa è la Chiesa delle investiture, dello scontro, che inizia, diciamo, a, anche come è normale quando è l'apoteosi del potere, senza accorgersene, ma noi oggi lo sappiamo, sono passati altri mille anni quasi. Abbiamo quel lasso di tempo, 700 anni, e quindi noi sappiamo che è l'inizio invece della decadenza. Una decadenza che è una decadenza che non è che c'è un collasso, no? C'è una trasformazione del mondo che è appunto causa di decadenza. Perché? Perché quella Chiesa che celebra se stessa con la indizione dell'anno santo, nell'apoteosi alto medievale, proprio perché siamo nel XIV secolo, è una Chiesa che è in quel momento. Perché può fare questo? Perché dopo mille anni ha costruito una cultura, quella occidentale, e tra l'altro è convinta che quella è l'unica cultura esistente, perché si hanno notizie di altri mondi ma sono ritenuti appunto barbari ed empi e senza Dio, anche se chiaramente poi Polo aveva riportato qualcosa. Notizie, ma non è lui l'unico, perché le notizie anche orali arrivano da tempo e qualcuno si muove, ma anche l'impegno dei grandi missionari verso l'est ancora non c'è, arriverà dopo appunto, ed è anche una causa di questa difficoltà che la Chiesa invece ha qui in Europa, perché qui in Europa si celebra nel momento di massimo trionfo. Dove? Cos'è la potenza? In che cos'è veramente che c'è questa potenza di questa Chiesa? Nella capacità in quel momento di ancora tenere unito perfettamente, come dire, il reale e la rappresentazione, che è il mondo che ha inventato quella teologia, partendo da Adamo ed Eva, il Dio biblico, Gesù che salva, e tutta la costruzione di quella apoteosi culturale che proprio nel 300 ha trovato un'espressione letteraria tra le massime dell'umanità, che è Dante, la Commedia, che è esattamente quel mondo trasposto, no? Ma vivo, reale, sì. Completamente reale, era letto ad alta voce, come avveniva realmente all'epoca, appunto, ormai lo sanno tutti perché quel cialtrone, insomma, l'ha dichiarato in modo così anche esplicito, ripercorrendolo, senza pensare che comunque non siamo nella Firenze del XV secolo, ma comunque, insomma, era letto ad alta voce. E quelle immagini erano vissute come totalmente reali, quello era il mondo che aspettava i cristiani dopo, così come lui con i protagonisti dell'epoca. Con tutti i protagonisti dell'epoca, ovviamente, quindi era esattamente divertente anche, perché quando era in atto c'erano i ricordi di persone che erano note. Immediati. Bisogna immaginarselo oggi, chiaramente. Per leggerlo oggi bisogna leggersi un apparato mostruoso di note, perché non si conosce il 98% della gente che viene evocata, lo sanno solo chi ha studiato. I dantisti. Per cui in quel momento c'è questa apoteosi che trova appunto nella forma letteraria europea la più alta forma possibile, che è Dante, e che è anche la nascita della lingua italiana in forma proprio così alta, codificata, perché quando scrivi una roba del genere usi tutta la lingua disponibile e la codifichi, come farà poi col tedesco molto dopo Lutero, ed è un'immagine 200 anni dopo, ed è un'immagine potente, perché non c'è ancora una letteratura così visionaria come quella che viene, diciamo, messa in campo da Dante in ambito proprio cristiano, dentro un conflitto però, perché lui si porta dietro Esilio, Guelfi e Ghibellini, che è quello tra impero e papa, che è il conflitto politico. Lui ha dei problemi politici anche con la Chiesa, e muore esule a Ravenna. Però questi sono fatti. Però la cultura è questa, la cultura è sono quei, lui parla non di ciò che, cioè, di quello che è successo è quello che dicevo prima, e lo tiene insieme con tutto quello che sono i mille anni prima, e lo tiene perfettamente insieme perché prima di lui c'è tutta la scolastica.